Danza del Vuoto, programma con Cristina. Once you free your mind about a concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. E Raffaella Rovina. Ciao. Raffa, ciao Fred, bentrovati. Bentrovati, bentornati, eccoci per la prima, che in realtà sarebbe la seconda puntata della risonanza della vacuità, non del vuoto, che è un'altra cosa, ma la prima in questo format con Cristina, dove io e Cristina ce la cantiamo e ce la suoniamo, visto che siamo tutte e due praticanti del Dharma in due tradizioni diverse, nelle quali avremo modo di zompettarvelo abbondantemente sull'argomento, e Fred, l'alter ego, che sicuramente porterà ulteriore energia positiva alla nostra conversazione. Vedremo. Energia sicuramente. Questo è sicuro. Vedremo di che tipo. Ok, io porterò, allora, gli errori sono colpa mia, tutto il resto lo portate voi. Mi piace. L'idea di questa serie di incontri è quella di esplorare un po' la radice degli insegnamenti di Buddha alla luce delle varie tradizioni e dei vari lignaggi che si possono trovare in Occidente ai giorni nostri. Io vi porterò gli insegnamenti di una tradizione buddista tibetana che segue un lignaggio attraverso Isha e Jisokarpa e il mio maestro, che si chiama Gesh Kelsen Gyatso, che ha creato, quindi la tradizione si chiama Kadampa e quella specifica del mio maestro è la nuovo Kadampa, mentre invece Cristina vi parlerà di... Io seguo il buddismo di Nichiren Daishonin, che è un monaco giapponese vissuto nel XIII secolo, e attualmente appartengo all'organizzazione Soka Gakkai. XIII secolo, più o meno è la stessa epoca di Jason Kappa, che è il fondatore del nuovo Kadampa, quindi più o meno vedi che si sono ripresi 1500 anni dopo gli 84.000 insegnamenti di Buddha Shakyamuni, e sono stati riorganizzati e risistemati per poterli praticare. Il buddismo aggiungere solo che il buddismo di Nichiren si fonda sul Sutra del Loto. Tra i numerosi sutra buddisti fa riferimento al Sutra del Loto. Bene, come brevissima premessa. Oh, allora, io prima di infilarmi così a dritto dentro al buddismo, volevo raccontare un pochino chi siamo noi tre, ma tipo qualche minutino a testa, dove siamo finiti, dove siamo, che tipo di tradizioni e pratiche siamo andati a esplorare nella nostra ricerca spirituale, nella nostra vita, prima di finire dove siamo, più o meno, una cosa del genere. Fred, problemi? No, tutto a posto. Solo mi sono reso conto che sono altissimo volume nel bar, che per fortuna non c'è nessuno, ma spero di non dar fastidio troppo. Se nel caso mi fa un cenno, se do troppo fastidio, no. Se dà troppo fastidio mi dà un cenno. Ok, grazie. Bene, chi vuole cominciare a raccontare qualcosa del proprio percorso e delle proprie esplorazioni? volete posso provare a dire qualcosa riguardo al mio percorso, al mio avvicinamento a, alla pratica buddista. Sono, come molti italiani, sono stata battezzata, cresimata, contratto matrimonio religioso in chiesa e non ero molto praticante, a dire il vero. Fin tanto che poi, in tempi molto recenti, ho attraversato un periodo un po' complicato della mia vita e stavo vivendo, proprio per agganciarmi anche al tema di partenza, che è quello della, della sofferenza e degli attaccamenti, e stavo vivendo una profonda sofferenza. Come fosse dovuta ad una relazione che non funzionava, in realtà la sofferenza era molto più profonda e riguardava proprio la mia persona, cioè quello che io sono. E quindi per puro caso una persona che avevo incontrato una volta nella vita mi ha parlato di buddismo e io mi ci sono subito cacciata a pesce proprio. Cioè ha stimolato subito il mio interesse, la mia curiosità e quindi mi sono avvicinata ai testi, alle persone, ai gruppi e ho cominciato a praticare nel giro di pochi giorni sotto istruzioni di questo amico che mi ha praticamente dato appunto le istruzioni per telefono. E poi ho cominciato a frequentare un gruppo, perché la Soka Gakkai è presente in quasi 200 paesi in tutto il mondo, e tra i quali l'Italia, e c'è una fitta rete di gruppi, capitoli, regioni, eccetera. E quindi sono stata presa per mano da una cara amica che ho ritrovato proprio grazie a questo avvicinamento al buddismo, e questo è successo oramai 6 anni fa e dopo pochi mesi ho aderito formalmente andando a ricevere il Gonzon a Genova e da febbraio 2015 sono un membro effettivo della comunità. La nostra pratica, la nostra adesione comporta pratica tutti i giorni con la preghiera, la recitazione del mantra e lo studio, l'incontro con gli altri membri, le riunioni di discussione, le riunioni di studio. In modo molto, molto semplice vi ho raccontato, e molto breve anche, come mi sono avvicinata alla pratica del buddismo di Nichiren. E lascio la parola o a Fred o a Raffa e poi magari mi riprendo dopo. Non voglio trattenervi troppo a lungo. Dunque, temo tocchi a me. Io non sono buddista, non sono religioso, sono agnostico. Sono filosofo, quindi i filosofi fanno professione di fede scettica, come diceva il mio professore. Talan, Timo Negri, gran cialtrone, ci diceva che i filosofi fanno professione di fede scettica. E rideva. Però, rispetto alla sofferenza, vi posso portare varie vie pseudo-iniziatiche che ho percorso a piedi e eventualmente qualcosa uscirà fuori. Tra cui la mia, oddio, faccio outing, la mia pratica con la magia, intesa in senso proprio la magia, quella dei maghi guarda, esoterici. Tra cui la mia pratica mi immaginavo già fustigazioni e cilicio. No, più che altro sono morto. Rispetto alla sofferenza, quello ho fatto. E basta, questo basta, dovrebbe bastare come va incipit. Va bene, allora, vabbè, io anche sì, Antonio e la Cristina ovviamente sono partita cristiana, inevitabilmente, dopo 13 anni dai gesuiti, non soddisfatta dei vari cristiani che avevo provato, pur avendo incontrato personaggi certamente di rilievo, da Don Gallo a altri incredibili gesuiti incontrati per la via, ma non soddisfatta della via spirituale mistica che non riuscivo a trovare, mi sono convertita all'Islam. Ho seguito una guida spirituale sufi in una via mistica sufi che si chiamava Purismo, che era collegata a questa ho praticato quella via per 2 annetti collegata alla guida, ma poi anche lì non c'erano varie cose che non mi andavano giù. Staccata da loro, ho continuato a praticare l'Islam per altri 5 anni, però non anche lì poi sentivo arido come sentivo arido il cristianesimo precedentemente. E parlo un po' fluttuante nell'etere, a studiacchiare roba qua e là, non sapendo bene dove rivolgermi, però poi ne parleremo dopo anch'io, con profonda sofferenza esistenziale, anche molto più amareggiata dopo le varie ricerche, studi, studiato un po', legato un po' alla massoneria, ho studiato altre vie iniziatiche però. E poi attraverso per caso un amico a Copenaghen ho trovato la Yuka Dampa Tradition e 6 anni fa pure io ho cominciato a meditare un po' con loro e sono andata avanti. Non mi sento buddista, non sono buddista, non penso che mi interesserà mai dire che sono buddista, ma spero un giorno di essere buddista, non lo dirò a nessuno però. E ti faccio una rivelazione, dai, Rafa, tu sei Buddha, come lo è anche Federico. Beh, tanta spero roba, di realizzare tanta roba. Il pieno potenziale del Buddha, che adesso è soltanto. Io a dire il vero mi sento un budino, ma insomma, vabbè, questa è butad, così potete anche spararmi. E basta. Ok. Quindi tema di oggi, lanciamolo, dai, tema di oggi. Partiamo subito con le cose toste. Partiamo un attimo dalle origini, giustamente. Qua ho un bellissimo libro per bambini, scritto dal mio maestro. Vi racconterò le origini. Poi ti racconterete. Buddha è nato nel 1600 di Cristo, una famiglia nobile indiana. Ci sono in realtà già discussioni sull'anno preciso, comunque diciamo che era il 600 o meno il 600. Siamo di 500 anni fa, circa. Ma intanto a noi cosa ci cambia alla fin fine? Assolutamente zero. Ed è proprio questo il contesto. Beh, intanto è nato, si sa, di sicuro. Intanto è nato. Di sicuro. E tanto certamente aveva naturalmente questa mente che vedeva e realizzava la sofferenza intorno a lui. La sofferenza della malattia, la sofferenza della vecchiaia e la sofferenza della morte. Quindi lui, adesso non è che ci mettiamo a fare un trattato sulla vita di Buddha, ha seguito la sua via, ha raggiunto la sua illuminazione e gli è stato richiesto, dopo un tot di tempo che se la stava godendo lì sotto l'albero nella sua perfetta illuminazione, gli è stato richiesto di insegnare, di girare la ruota del Dharma per tutti quanti noi, visto che non avevamo una via da seguire per raggiungere lo stesso stato. E quindi Buddha ha insegnato, ha dato 84.000 insegnamenti diversi, come un buon dottore che dà a ognuno la sua cura specifica per seguire la sua strada specifica. Ma soprattutto ha dato, e questo è il punto che abbiamo preso come punto di partenza per dare un minimo di struttura agli incontri, ha dato le quattro nobili verità. Le quattro nobili verità, bene o male, anche se poi ci sono mille tipi di buddismo diverso, bene o male sono un po' la base per tutti quanti, e quindi sono: conosci il dolore, conosci l'origine del dolore, conosci la cessazione del dolore e percorri il sentiero, conosci il sentiero da percorrere per arrivare alla cessazione del dolore. Questi sono i quattro capisaldi. E quindi oggi partiamo con conosci il dolore. Aia. Aia. Dunque, nella mia tradizione, e però questo penso che sia condiviso un po' in parecchie tradizioni tibetane, e lo vedremo se prima o poi avremo degli ospiti che vengono da altre tradizioni che ci condividono la loro pratica, nella mia tradizione fondamentalmente vi voglio leggervi qualche pezzo che descrive che cos'è il dolore e perché soffriamo fondamentalmente. L'origine di tutto fondamentalmente è il samsara, viene definito samsara, il ciclo eterno di rinascite contaminate. E quindi finché ci sono rinascite contaminate si fa esperienza di dolore. Vediamo, sono selezionata tre pezzettini e partirei con questo qua. Allora, questa è una quindi di base la meditazione iniziale con la quale si inizia proprio il sentiero è una meditazione sulla rinuncia. E ve la traduco così a braccio dall'inglese, quindi non scrivetevi se vi sembra strana ogni tanto. Lo scopo di questa meditazione è sviluppare una realizzazione della rinuncia, che è la spontanea voglia di raggiungere la liberazione dal samsara, che è il ciclo delle rinascite contaminate. La rinuncia è la porta attraverso la quale entriamo in cammino per la liberazione o nirvana. Nirvana e samsara sono i due mondi, diciamo, che si contrappongono. Il nirvana, che è la permanente, la pace interiore permanente, è ottenuta attraverso un abbandono completo dell'ignoranza del self-grasping. Non mi ricordo più come si della traduce in italiano. Consapevolezza, dell'autoconsapevolezza, autocoscienza, la coscienza di sé, del grattarsi. L'aggrapparsi al sé, traduciamolo così per ora, l'aggrapparsi al sé. Ma tanto poi ci andremo a fondo in questo, perché questa è la base del concetto. E quindi continua il mio maestro dicendo: in se stesso la rinascita umana è una vera sofferenza. È preziosa e ha valore soltanto nel momento in cui è un percorso spirituale. Altrimenti continuiamo a sperimentare vari tipi di sofferenza. Perché abbiamo preso questa rinascita che è contaminata da un veleno interno degli accecamenti. Va bene, delusions in realtà si traduce più come illusioni, no? Più che accecamenti. Però in italiano lo traducono normalmente accecamenti. Comunque io sono abbastanza pignola sulle parole perché mi confondono e mi piace dare mille versioni diverse. Noi ci riferiamo all'oscurità fondamentale. Come questo veleno interno dell'illusione? Esatto. Come la chiamate? Oscurità fondamentale. Oscurità fondamentale. Ne, Perfetto. nell'esoterismo c'è la selva oscura, per esempio, l'immagine della selva e della lupa, la lupa che rilancia Dante dentro la selva, per esempio. C'è anche un bel testo di Guénon su Dante esoterico che mi colpì parecchio quando lo lessi da ragazzino, stesso periodo in cui lessi Siddhartha. Sì, è quindi sempre la stessa cosa. Poi quando ci andremo ancora più dentro, in questa tradizione ci sono tre livelli di ignoranza e quindi di illusione. C'è un livello esteriore, c'è un livello interiore, c'è un livello segreto che poi è proprio l'origine, l'oscurità fondamentale. Boh, e quindi procedendo, vi dico. Questa esperienza non ha inizio perché abbiamo preso rinascite contaminate dall'inizio dei tempi e non avrà fine finché non riusciremo a raggiungere il nirvana e quindi per quello la liberazione permanente. E, se contempliamo e meditiamo su come sperimentiamo questa sofferenza e queste difficoltà attraverso la nostra vita e in vita dopo vita, raggiungeremo la forte conclusione, che ogni singola sofferenza e problema viene dal fatto che abbiamo preso questa rinascita. E quindi svilupperemo un forte desiderio di abbandonare questo ciclo di rinascite contaminate. E quindi in questo senso contemplare e meditare sulla sofferenza ha un grande significato. Ha un grande significato perché è l'energia che ti porta alla liberazione e quindi ha un grande significato positivo. Ovviamente nel momento in cui cominci a farlo, sembra che sia, come dire, la porta per il suicidio, per la disperazione o per qualunque cosa, una cosa terribile. Volevi dire qualcosa? C'è un'immagine molto semplice ma anche molto efficace per quello che hai appena detto, che quando si inizia appunto a praticare, a meditare, è come andare a rovistare dentro uno stagno che ci sembrava l'acqua fosse trasparente, in realtà smuoviamo tutta la melma che c'è e viene tutto a galla. Però recitare e meditare è un po' come mettere acqua pura e quindi con tanta meditazione e recitazione pratica, in pratica andiamo a purificare quell'acqua che in primis, a un primo impatto ci sembra dire ma caspita, qui non ci vedo più niente, ci fa affogare, ci fa sparire dentro quel fango, la melma. Anche noi abbiamo una bella similitudine con l'acqua sulla meditazione, per spiegare come funziona la meditazione, che parte proprio dall'idea di nel momento in cui cominciamo per le prime volte a meditare, la mente è piena di qualunque cosa ed è come se fosse un bicchiere d'acqua con del fango, con della terra, agitata, la mente è agitata e quindi l'acqua è torbida e quindi non si vede niente. Pian piano, mentre si impara a calmare la mente, si separa l'acqua cristallina dai sedimenti, quindi la mente tranquilla, poi arriva anche una visione più chiara. Guarda, vedo che Federico ha bisogno di sputare fuori qualcosa, No, vedo. no, no, no, no, Federico non c'ha Dai. bisogno di sputare. No, mi sono venute in mente un sacco di cose a sentire questa cosa qui. Soprattutto Questo è il momento, aneddoti. è il minuto perché. Aneddoti. La mia introduzione alla meditazione fu attraverso l'Aikido. Fondamentalmente tu sei convinto di aver capito una tecnica che ti permette di arrivare in una certa posizione insieme al tuo collega di pratica e invece non funziona, continua a non funzionare perché la pensi. Poi a un certo punto non la pensi più e funziona, però non viene bene. Continui a lavorare su questa dinamica. Sono sempre tre le cose. Questo io capii all'epoca, che ci sei tu, la tua volontà, la tua illusione, no? Quella che forse chiamate samsara, si inquina con la tua volontà, con i tuoi concetti, con le tue cose. Poi però arriva la mano in faccia, che è reale, ti colpisce, ti fa male, e se non ti sposti. E su, da quello comincia il lavoro, che piano piano ripulisce finché la mano passa attraverso e tu riesci a fare la tecnica, che però è ancora brutta e continui a lavorarci tutta la vita e ancora guardi i maestri che la fanno benissimo e dici ma come cazzo fanno? Ti viene, ma ti viene brutta. Ecco, questo è quello che capì io più o meno a un certo punto, con cui leggo ciò che mi dite, insomma. Ci sono queste tre forze, no? La nostra autoillusione, capacità di autoilluderci, il mondo che ci viene incontro e qualcosa di puro che però non viene bene, su cui puoi lavorare tutta la vita per pulirlo, per purificarlo. E forse con la meditazione è un po' simile, però non lo so. No, non lo so perché non, spesso nella meditazione ne ho fatta poca, ho fatto un po' di meditazione zen per provare, non c'ho la mano in faccia, cioè mi manca quell'aspetto lì, l'aspetto della mano in faccia, che se non ti sposti ti piglia. E invece nella vita c'è l'aspetto della mano in faccia, tu sei assolutamente convinto di essere in pace e poi arriva uno stronzo, ti taglia la strada con la macchina e tu non sei in pace, sei una bestia. Ma ti arriva anche con la meditazione. Noi i momenti in cui non sei sul cuscino di meditazione lo chiamiamo meditazione in cui non sei sul cuscino di meditazione, come dire che tutta la vita è un non stop di meditazione. Quindi cioè se tu ti fai un'ora e sei qui che viaggi nel tuo felice nirvana, ti alzi, prendi la macchina e cominci a tirare bestemmie, non funziona. Quella è la tua mano in faccia che ti fa capire che evidentemente non hai purificato la tua mente, non sei andato a fondo nelle tue illusioni, non stai camminando sul sentiero. Vabbè, allora parlando ancora un po' poi quello che ci ricorda che il sentiero è lì e dobbiamo di nuovo deviare e andare a meditare ancora. Cioè le illusioni e i desideri sono illuminazione, nel senso che finché abbiamo desideri e illusioni siamo portati ad andare a meditare, a recitare. In questo senso vengono desideri e le illusioni sono essi stessi illuminazione. Sono essi stessi illuminazioni. No, sono illuminazione nel senso che cioè, se noi abbiamo desideri e abbiamo illusioni, siamo portati ad andare a meditare e a recitare per realizzare quelli che sono i nostri desideri. E la pratica è il mezzo che ci permette di avvicinarci alle illusioni. Perché la nostra pratica è quella che ci dice è rivoluzionaria in tal senso che non è che dobbiamo aspettare una, due, tre, quattro vite per essere felici. Possiamo esserlo qui, adesso, in questo posto, con l'ambiente che c'è, con le persone che abbiamo intorno. Perché dipende solo da noi. E quindi, insomma, da questo punto di vista è abbastanza rivoluzionaria. Ecco. E qui sia io che Raffaella stiamo facendo sì, con la testa, che voi non potete vedere, cari radioascoltatori, perché lo stiamo facendo dentro la chat. Sì, sì, abbiamo fatto sì, sì, anche se, se posso aggiungere, perché mi avete chiesto di fare un po' il diavolo con le corna, e quindi se posso aggiungere anche... Ecco, la felicità è sopravvalutata, secondo me, e anche la serenità è sopravvalutata. Io sono per la fermentazione, ma qui mi sposto in un altro ambito e preferisco ridare la parola a Raffaella, che mi guarda con aria... Sì, perché qui ho bisogno di fare un passo indietro rispetto al mio approfondimento di quel che rispetto all'approfondimento che volevo fare sul samsara e sul karma, e voglio invece leggervi veramente l'inizio, l'apertura, la base del messaggio della tradizione con la quale accoglie qualsiasi nuova persona che arriva e si siede per la prima volta nel centro, che è questo. La pace interiore o pace mentale è l'origine di tutta la felicità. E nonostante gli esseri viventi abbiano tutti quanti il basico desiderio di essere felici sempre, molte poche persone capiscono che cosa è la felicità veramente, cosa è la causa della felicità veramente. E noi spesso pensiamo che condizioni esterne, e qua riprendo quello che dicevi te, Cristina, come il cibo, gli amici, la macchina, i soldi, siano motivi di felicità, e quindi come risultato dedichiamo tutta la maggior parte del nostro tempo ed energia per creare queste condizioni. E superficialmente sembra che queste cose ci facciano effettivamente felici, ma se guardiamo più profondamente, ogni cosa che ci rende felice ci porta anche sofferenza e problemi. Pensa a qualsiasi cosa, pensa al cibo, al troppo cibo, pensa ai soldi, e poi la paura che ti rubino. E lancio, ti faccio un altro lancio, proprio no, perché bisogna distinguere quello che è felicità relativa da quello che è la felicità assoluta. Tutte le cose che abbiamo, che appunto hai elencato, fanno parte della felicità relativa, cioè è un qualcosa di esterno a noi, al quale noi attribuiamo un tipo di felicità, ma appena queste cose diminuiscono, vengono meno, si modificano, purtroppo si rivelano per quello che sono, felicità. Invece la pratica, la meditazione, che ci porta al contatto, alla nostra felicità profonda, quella è la felicità assoluta. Cioè soltanto il fatto di stare per noi davanti a Cortona, diciamo alla pergamena che ha scritto Nichiren nel 1200, e recitare, e quello è fonte di felicità assoluta. E quindi tutte le cose esterne a noi, e pratiche, materiali, non hanno nessuna importanza, nessun valore. Interessante. Linguaggi diversi. Io avrei una domanda. Una domanda a entrambe, visto che la puntata è sulla sofferenza, da dove arriva per voi la vostra idea o esperienza di sofferenza primigenia? Cioè, quando dovete rapportare qualcosa alla sofferenza, qual è per voi il nucleo esperienziale di questa sofferenza? Ah, per me è chiarissimo. Ma parto? Certo. Il momento in cui l'ho toccata più con mano è stata dopo che ho avuto un figlio. Era chiaramente una, un una condizione esistenziale che mi ero sempre portata, ma lì è diventato non più sostenibile, come penso che succeda anche a un sacco di gente. E completamente la, per metterla giù in parole umane, è la sensazione che il momento passi, proprio l'attaccamento a, al momento, e non dire che il bambino sarebbe cresciuto e che la vita sarebbe andata avanti. Poi magari la puoi trasformare in paura della morte, paura che succeda qualcosa, paure varie, banali, di quello. Però a fondo, a fondo, a fondo, per me la sofferenza più grande era il tempo che passa. Caspita, grazie. Cristina, grazie. Tu vuoi dirlo oppure no? Anche se... No, non ho problemi. La mia sofferenza è una sofferenza che è... non ho avuto consapevolezza fino a quando non, in realtà non ho incontrato questa pratica. Mi spiego meglio. Cioè, col senno di poi, guardandomi un po' all'indietro, i miei primi 50 anni di vita, in realtà li ho vissuti sempre segnata da un profondo tormento, fin tanto che appunto a seguito di una difficilissima relazione finita male e che ci ha messo un sacco di tempo a finire proprio a causa dei miei attaccamenti e la mia difficoltà a staccarmi, no? Dalle cose e dalle persone, e mi ha fatto provare una, veramente una sofferenza profonda, che mentre la vivevo non vedevo tutto buio, vedevo tutto nero, avevo la sensazione che non ce l'avrei fatta. E il fatto di aver incontrato la pratica, in realtà questa relazione così difficile mi ha portato ad avvicinarmi alla pratica e al buddismo, ed è iniziando a meditare ho fatto emergere tutte le mie paure e tutte le mie sensazioni di inadeguatezza e ho cominciato a lavorare e a provare a risolvere. Quindi questa pratica mi ha permesso di conoscermi molto di più e affrontare le mie paure che mi rifiutavo di vederle. Quindi quando io ho incontrato il buddismo, in realtà ho avuto la sensazione di aver trovato una via della spiritualità che non sapevo cosa stessi cercando, però in quel momento lo riconoscevo come quello che io avevo bisogno e che desideravo. Bene. E te, Fede, che hai tirato il sasso e ritirato la mano? Beh, io ne ho tante, tantissime. Forse quella più antica è quella di essere handicappato e non saperlo. Quella che mi ricordo proprio più antica, avevo un bambino spastico alle elementari e mi venne il dubbio di essere anche io mentalmente non giusto come lui e non saperlo, tant'è che mi ricordo a un certo punto ci soffrì parecchio finché non mi venne in mente, dico vabbè, però se mi pongo la domanda forse no, è un modo per dire, una specie di io penso, se lo penso probabilmente non lo so, ma quello di essere ingannato da tutti e non essere giusto è uno dei dolori più antichi. Poi c'è una collezione, il mio preferito è quello metafisico, quando da scettico cominci a dubitare di tutto, distruggi la scienza, distruggi il mondo, distruggi te stesso, e ti accorgi che in fondo all'abisso l'abisso ti guarda e ti vede benissimo. Ecco, quella pure è stato un dolore, quasi come essere nudi su una roccia trafitti da una spada di fuoco. È stato tosto. Basta, no? Non lo so. Dalle facce vostre direi che avanzano poco. Cioè, non che sia meno, ma io poi ho una mia teoria sul dolore maschile, che si sa, noi uomini sopportiamo molto poco il dolore fisico e ci costruiamo volentieri tutti i dolori metafisici, posticci, ad hoc, per evitare il confronto con le paure fondamentali, la paura di essere sbagliati, la paura di morire, la paura di avercelo piccolo, spesso giustificata, e anche la paura di non esserci, che non è male come paura. Però non è un dolore, non esserci è più una paura che un dolore, secondo me. Io mi aggancio a questa cosa della paura per dire la paura spesso provoca dolore, però. Cioè, è l'origine. Proprio la stessa cosa. In realtà nei miei testi la paura non è contenuta. Cioè, non se ne parla mai di paura. Però la paura è uno dei più delle più grosse cause di dolore che secondo me abbiamo, ecco. Beh. E in realtà mi ricordo un bellissimo testo di Gurdjieff, dove lui diceva che gli esseri umani usano il 90%, vabbè, si sparava una cifra assurda, della loro energia in paura, che se non consumassero tutta questa energia nell'essere preoccupati, potrebbero in realtà sviluppare ben altro tipo di sensazioni e capacità. È interessante che nomini Gurdjieff, che è un altro pratico, cioè anche io ho incontrato un po' Gurdjieff così di straforo, ed è un altro che cerca di verificare la plausibilità dei suoi insegnamenti facendoti fare delle cose che secondo lui senza il suo insegnamento non saresti in grado di fare, un po' come l'aikido. Gurdjieff ha i movimenti, ha gli esercizi spirituali che sono estremamente difficili da fare, che portano in uno stato di meditazione cinetico, cioè quando cominci a muoverti sdoppiando, triplicando i tuoi ritmi interni, il corpo si muove con quel ritmo interno e la tua mente entra dentro uno stato, diciamo, di coscienza differente, in cui non riesce a tenere ferma nessun concetto, nessuna parola, perché nel momento in cui tieni una parola nella mente sbagli e perdi, no? Come il giocoliere che fa girare le palline. Sì, Gurdjieff è un po' così, perlomeno come l'ho visto io, così di sfuggita. Sì, ora non vorrei deviare troppo, però anche in questa tradizione ci sono degli step e delle verifiche, perché è importante sapere in che punto sei del cammino. Non è che ti siedi, mediti, nessuno può giudicare, nemmeno te, e vai avanti a oltranza e non sai dove sei. In realtà sono definiti molto chiaramente terreni e cammini, livelli e percorsi, livello e percorso, e per ognuno hai un modo di verificare se l'hai raggiunto e poi da lì qual è lo step successivo. Ecco, però per quanto ci riguarda noi non la vediamo così, in questo modo, in questa progressione, nel senso che il nostro buddismo mette a fuoco i cosiddetti 10 mondi, a partire dall'inferno, quello della buddhità, no? L'inferno è considerata la depressione, quella più malvagia, dove ti trovi in uno stato che non vedi via di uscita e sei vicino al suicidio. La buddhità chiaramente è lo stato di illuminazione e cosiddetto nirvana, no? Però recitando, cioè poi ci sono persone che tendenzialmente magari sono più stabili proprio nel mondo d'inferno, piuttosto che in quello dell'avidità, della collera, dell'animalità, però recitando possiamo uscire, no? Da questi stati che ci fanno soffrire. Ma non diventiamo immuni, cioè non è come salire una scala, bene, adesso dall'inferno sono passato all'avidità e poi passo all'animale, poi passo all'umanità, e così. No, perché in qualunque momento noi possiamo fare un balzo molto lungo in avanti, ma anche farne due indietro, perché i 10 mondi sono tutti contemporaneamente dentro di noi, quindi attraverso la meditazione noi ci spostiamo verso i mondi che ci fanno stare meglio, ma una volta che abbiamo raggiunto un mondo dove stiamo meglio, in qualunque momento possiamo tornare indietro. E però è anche una visione, diciamo, che dà speranza, il fatto di sapere che se tu sei nel mondo d'inferno, attraverso la meditazione puoi uscire in qualunque momento e stare bene. Quindi non c'è questo discorso della progressione. Si medita per andare alla ricerca di quell'equilibrio che in qualunque momento noi possiamo raggiungere. Ce li vuoi descrivere per bene i 10 nuovi? No, non ce l'ho imparato. No, non ce l'ho sotto mano, però. No, perché dovete sapere, cari ascoltatori, dovete sapere che qui le ragazze si sono preparate molto bene e sono molto puntigliose. Poi quando comincia la trasmissione, la mettono giù facile, ma sono delle tetrapilolitiche di classe, direi. Scusate, apro e chiudo la parentesi per i nostri ascoltatori su Radio Antidoto, che ci stanno ascoltando da... Abbiamo soltanto preparato le basi concettuali, delle tue tradizioni. Quindi ovviamente questa è una grossa base per Cristina, ma mentre tu la cerchi... No, perché c'ho tutto qui sotto mano, ma sai, ho il libro, ho qui l'ultima rivista... Sì, io ce ne ho 40 aperti tutti. Ovviamente sono l'inferno, l'avidità, l'animalità, la collera e l'umanità, è già il quinto mondo, che è quello che si avvicina ad una sensazione più gradevole. Poi l'estasi, lo studio, la parziale illuminazione, bodhisattva e la natura del Buddha, buddhità. Però l'inferno e la buddhità, per prendere gli estremi, sono tutti contemporaneamente dentro di noi nello stesso momento. Questo è forte come pensavo. Cioè, puoi metterti su muto quando non parli? No, perché poi non vi si sente. Come sono messo qui, purtroppo, d'altronde non posso pretendere che cacciare fuori gli avventori. Esatto. I nostri ascoltatori di Radio Antidoto ci perdoneranno forse. Moderno, al bar, buddismo al bar. Buddismo vita uguale vita quotidiana. Anzi, a proposito del buddismo, mi prendo un altro birrino. Mi scusi, posso averne un altro? Grazie. Bene, no, e questa cosa che ci hai raccontato, ci ritorneremo mille volte. È interessante perché invece. Quando cerco, diciamo, di metterla in parallelo rispetto ai miei insegnamenti, ne mette insieme tanti altri che sono spiegati e raccontati in modo completamente diverso. Infatti riconosco un sacco di cose, però messe tutte in una logica, in una struttura che non c'entra completamente niente. Quindi adesso te ne racconto un pezzettino, che è un pezzettino del nostro, che spiega parzialmente quello di cui sto parlando. E l'altro discorso invece è che nel Kadampa le rinascite vengono classificate in sei tipologie di rinascita, anche lì dall'inferno ai fantasmi, spiriti affamati, animali, umani, semidivinità, divinità. Ed è una roba simile, però infatti intanto come vengono spiegate, poi ci sono interpretazioni diverse, sono rinascite vere e proprie, e tu a seconda del karma e a seconda del tuo karma fondamentalmente prendi una rinascita o un'altra, e non è che se sei una divinità non puoi rinascere come uno spirito dell'inferno, può succedere. Quindi non sei libero, e questo è il samsara, questa è proprio la descrizione del samsara, sono i sei livelli del samsara, sono tutti, dal più tremendo al più piacevole, sono comunque rinascite contaminate. E quando vai nel nirvana è quando ti liberi dalle rinascite contaminate. E la interrompo qua, se no adesso vado proprio nelle questioni di Lana. E vi leggo questo pezzo invece sull'ignoranza, che spiega esattamente questo. Ci sono due classificazioni dell'ignoranza. Una è l'ignoranza sulle azioni e il loro effetto, quindi il karma, e l'altra invece è l'ignoranza della vacuità. E allora, dove la prima, perciò il karma, è una causa di nascita, rinascita inferiore, quindi quello che ho appena descritto, la seconda invece, l'ignoranza della vacuità, è una causa di rinascita nel samsara in generale. Quindi se anche hai sviluppato un karma, quindi attraverso azioni virtuose, che ti fa rinascere come una divinità che vive benissimo la sua vita, comunque la tua ignoranza profonda e segreta del fatto che tu stesso e che ogni fenomeno sono in realtà vacuità, ti fa restare all'interno del samsara, quindi all'interno di una di queste sei categorie di rinascita. Infatti procede dicendo, infatti perché non capiamo, per poiché non capiamo le mancanze delle azioni non virtuose o il beneficio delle azioni virtuose, ci comportiamo in maniera che poi risultano in una rinascita in migrazioni infelici. Quando capiamo le azioni e i loro effetti correttamente, ci verrà naturale di accumulare azioni virtuose e abbandonare le azioni non virtuose, di modo da proteggerci dalle rinascite inferiore. Comunque, anche se capiamo le leggi del karma e agiamo di conseguenza, finché non abbandoniamo l'ignoranza nella vacuità, e quindi avendo una realizzazione diretta della vacuità, continueremo sempre a fare delle azioni che ci porteranno nel samsara. Anche le azioni virtuose, le migliori azioni motivate da questo attaccamento al sé sono, lui definisce, true origins, cioè sono l'origine, la vera origine, quindi la causa della rinascita santa. Lo so che è abbastanza. No, è molto chiaro. Sono d'accordo con te, Cristina, e anche con te, Raffaella. È molto chiaro in realtà. È necessario? Boh, non lo so, questo non lo so. Nel senso che se togli un sacco di, almeno due o tre delle premesse, il discorso rimane in piedi. Faccio un esempio stupido, poi posso? Quando Kant fa la sua teoria del tutto, trova 12 categorie e le trova andando a vedere la logica flessionale della lingua tedesca. E la prima critica che fanno tutti a Kant dice: sì, vabbè, ma perché 12? Perché 10? Perché 130? Perché 10.050? Come fai a dire di aver esaurito le categorie solo con quelle che un aggeggio fatto di cellule su un pianetucolo pieno di muffa intorno a una stella di 14° livello in una galassia qualsiasi capisce dell'universo? Punto. Perché 10? Perché la reincarnazione è necessaria? No. Se posso dire, la reincarnazione non è che... Scusa, avevi finito, Fred? Non voglio interrompere. Sì, vai. Era una provocazione, quindi va benissimo che entri con foga. Non è la reincarnazione, almeno dal mio punto di vista, non è la reincarnazione ad essere necessaria. È acquisire la consapevolezza che non c'è vita e non c'è morte, nel senso che vita e morte sono la vita stessa e l'eternità della vita, ma noi possiamo, attraverso, avendo acquisito la consapevolezza della legge di causa effetto, che quindi le nostre sofferenze sono causate da nostre azioni, questa vita o nelle precedenti, negative, nel momento in cui noi ci risvegliamo a questa verità e iniziamo il nostro percorso di pulizia del karma passato e di agire nel presente e nell'istante, ma nel rispetto di viventi e non viventi, la nostra vita cambia questa e delle premesse per la prossima. Ma di partenza il fatto appunto che non c'è separazione tra vita e morte, ma la vita è composta dalla vita e dalla morte. Sì, anche il tetrafarmaco, che guarda caso sono quattro farmaci di Epicuro, dice la stessa cosa: quando la morte arriva la vita è già andata via, per cui non ti preoccupare. Funziona, cioè. Comunque c'è i 10 modi o le 6 categorie della rinascita, cioè, i numeri qua lasciano il tempo che trova. Direi che proprio ci piace confrontarli, sì, ma stiamo facendo no. Stiamo cercando di organizzare e dare il lo cerchiamo di andare a fondo, Carlo, per passare il messaggio. Esatto, sono soltanto ci sono semplificazioni per trasmettere il messaggio. La cosa più importante che mi questo era che le parole e le immagini una volta che erano funzionali al fatto che tu dentro di te potessi fare l'esperienza pratica di quello che ti volevano trasmettere. Una volta fatta questa esperienza, dimenticare la parola, dimenticare l'immagine, non importa, usi qualunque cosa, usi quello che ti viene bene. Sono d'accordo con te, infatti era lì che un po' volevo arrivare, un po' come la scala di Giacobbe nelle tradizioni esoteriche o tante altre cose di varie tradizioni, no? Che quando poi sei arrivato butti via la scala, non ti serve più. Però è fondamentale per trovare un po' il bandolo della matassa. Siamo arrivati alle 18. Ci volete raccontare cosa sarà la prossima puntata e quando sarà? Perché mi sa che questo format spacca, quindi dovremo sicuramente fare altre puntate. Aspetti, ma io ho una domanda, ma se gli ascoltatori vogliono intervenire possono scrivere sulla chat? Sì, certo, possiamo dirlo anche, ascoltatori, se volete intervenire, se volete partecipare a questo programma sempre di più, potete farlo sulla chat Ascoltatori Radio Antidoto su Telegram, oppure scrivendoci a vieni, credo, @radioantidoto.org, e vieni nel senso vieni a fare la radio, per cui... Oppure fatevi il vostro programma radiofonico in cui ci spiegate voi cos'è la vacuità, per esempio, che anche questo è possibile, magari vi ascoltiamo. Se siete praticanti, perché 10 mondi sono 20 o sono 8, che ne so. Sempre numeri interi. Praticanti di qualsiasi tradizione, unitevi e venite a raccontarci, a confrontarvi con noi. In multipli pari e dispari di pi greco mezzi. Così. A questo punto vedo dalla faccia delle mie ospiti che mi stanno ospitando loro in realtà nel loro programma, vedo la faccia che è giunto il momento che il vostro amico Fred stia zitto e di passarvi la sigla finale di questa puntatona. Volete salutare? Ciao a tutti. Ciao. Vediamo già 2 settimane, direi, e parleremo della prossima origine, cioè l'origine del dolore, che abbiamo già toccato oggi. Continueremo comunque a parlare del dolore e continueremo a parlare comunque di tutto in modo random alla faccia della struttura. No, beh, credo che siamo rimasti nella struttura. Dopo il dolore parleremo dell'origine del dolore, continueremo a mettere il dito nella piaga, per cui piagatevi assieme a noi e alla prossima puntata su Radio Antidoto con Raffaella Roveda e Cristina Vignone e lo zio Fred. E lo zio Fred, grazie, grazie Raffa, a presto, ciao Fred, grazie a Fred.